Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Ustica.Condor di e con Daniele Biacchessi. Riprese Giuseppe Sacca. Allora, era il 17 giugno del 1980 e qui dobbiamo essere precisi. Quando si fanno questi racconti, anche i secondi, anche quelle cose che dici, ma tutto deve essere preciso. Ed erano le 17:30. Dice che il caldo non si sentiva, che c'era un forte temporale che rinfrescava l'aria, nulla di più. Beh, pioggia d'estate. C'era una normale perturbazione di giugno, dicono i bollettini meteo, che sono andato a vedere. Infatti, non c'erano grandi temporali, come qualcuno scrive, no? Dice che c'erano i bocchettoni dell'aria condizionata che raffreddarono il salone dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Borgo Panigale. Dice che c'erano i taxi che scaricavano continuamente passeggeri. E adesso è normale, venerdì di giugno, venerdì, si parte, si va. Del resto chi viaggia conosce meglio le regole che non sono scritte, che non sono codificate. Negli aeroporti invito sempre a recarsi in anticipo di venerdì per evitare problemi. Dunque, l'orario di partenza di questo volo Bologna-Palermo della compagnia Italia è fissato alle 18:15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. E c'era lì il tabellone che segnava forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima, dice una ragazza, sei rimasta a casa almeno un'ora. E c'era davanti al posto della compagnia Italia, erano già radunati lì 77 persone come i soldati che gli avevano detto vieni prima, oh vieni prima. Italia, buon pomeriggio. Che uno già si tocca con gli occhi per scegliere. E tu dici, magari era arrivato da Parma, con la macchina. E poniamo che il volo di H870 con destinazione Palermo può accreditarlo. Sì, ma quanto? Quanto? Me lo vuoi dire? Quanto? Cosa è successo? Cosa è successo? La nostra Svitella Gentile, venite qua, ci sono dei problemi. No, nessun problema. E stanno lì fermi come dei soldati ad aspettare i bagagli, che i bagagli, che c'era sempre quello, e potevi portare tu una borsa non è portata, dove è la borsa? Altri invece, quelli che, ci sono sempre quelli più, che non sono più furbi, quelli che hanno volato, che te la volevano spiegare, no? Io ho volato, E loro sanno che in un aeroporto a fine di giugno si può anche aspettare. E allora quando devi aspettare che fai? Leggi un giornale, ti guardi intorno, ti vedi il duty free, un profumo, una secca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non hai potuto prendere al mattino. E ti metti tutto in tasca nel borsello. Dicono che arriveremo in ritardo un'ora e mezza, forse più. Che un'ora e mezza sono 90 minuti a casa mia, 90 minuti. E un minuto più, e un minuto più. Allora qualcuno prende il telefono, che non è il cellulare di oggi, no? Non so se vi ricordate. E c'erano quei gettoni di rame, no? Che tu infilavi dentro, stoc. E dici, cazzo, stoc. E stoc. Che quando riusciva a beccare la linea, dall'altra parte sentivo, c'hai un giocattolo, tu dove sei? A Milano. E tu a Milano. Però, che sembrava una roba chiarina. Dicono che arriveremo in ritardo, 2:30. Altri invece non ce la faranno mai. Allora, dice che c'era Luigi Anders, che era un medico di turista. Dice che lui voleva recarsi a Palermo con un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo amico migliore. E con lui, dice, c'era Cinzia Benedetti, che si era appena laureata in lingua all'Università di Pavia. E poi c'era Francesco Bagliamonte, che commerciava in carne. E poi c'era Paola Bonanti, che doveva raggiungere il padre in un congresso in Sicilia. E c'era Alberto Bonfietti. Alberto Bonfietti, giornalista di Lotta Continua. C'era Maria Vincenza Calderoni che tornava a casa, a Bologna era stata all'ospedale, una visita medica di controllo che poi è durata mesi. Era il 27 giugno dell'80, quel 19, IH870 della compagnia Italia era un mulo. Era una bestia. A lui gli avevamo detto, adesso prendi da questo momento e cominci a volare in giro per il mondo. I tecnici della mezza terra lo avevano trasportato bello, pulito, lavato, fuori da un hangar, che era quasi là. Controllano la sua strumentazione fino ai minimi particolari, gli uomini delle imprese di pulizia lavano gli interni, sedili, toilette, lingo e senza polvere come l'uomo. 807, decolla dalla Calabria. Le volte grate la pista di Roma Ciampino, che sono le 8:50, e poi vai ancora. E c'è una lunga giornata. C'è una nuova partenza alle 10:12, via da Roma, 42 minuti dopo la Bologna, vola giù, su, per le rovine, sotto un cielo a tratti limpido, in altri momenti in mezzo alle nuvole cariche di acqua. E poi, quando esce dalle perturbazioni, i piloti e i passeggeri possono perfino guardare il contorno delle Alpi. Non so se avete mai provato a volare intorno al nostro paese. Ci sono dei pezzi del nostro paese dove la conformità, le montagne, i laghi, i fiumi. Io mi ricordo che quando dovevo tornare a Milano da Roma, sapevo che ad un certo punto c'era il fiume Po. E sapevo che prima del fiume Po c'era il Golfo della Spezia, il Golfo dei Poeti. Quando era lì, ho detto, fra poco, fa 10 minuti, 4 ore, a terra Milano. E quando tornavo indietro, che ancora non vivevo qua, passavo certe volte dal lago di Bolsena o altre volte da altri laghi e sapevo che dopo qualche minuto sarei atterrato a Fiumicino. Da lassù paesi e città sembrano dei minuscoli agglomerati, delle strade che si intersecano nei limiti di campi coltivati dall'uomo, tutti da rare. Le 13:03, quella vecchia ancora pronta, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale alle 14:29 e torna al punto iniziale, cioè la Venezia Terme. 39 minuti di ritardo, 16:10, l'aereo non ne vuole sapere di fermarsi, è ancora in marcia. Arriva a Palermo Punta Raisi alle 16:59, poi il 19 raggiunge Bologna alle 19:30. 94 minuti precisi di ritardo. Per il 19 c'è già un'altra partenza, l'ultimo rullaggio, l'ultima chiamata, l'ultima storia di una giornata. Inizierà alle 20:02, decollo 20:08, 113 minuti di ritardo. Dice che se qualcuno non l'avesse fermato, sarebbe arrivato più o meno alle 21:13, più o meno. Allora, questa bestia è un aereo bianco con strisce rosse e pomeridiano, corto medio raggio. BC9, serie 10, model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas Yeo, Long Beach, California. What's America? Così che quando fanno le cose gli americani, ragazzi, occhio che le fanno bene, mica come noi, bravo, no, quelli fanno i cicli come gli americani, che poi non è proprio così, che lui ha un numero di serie di costruzione, sono andato a vedere, 45724. La prima volta che sbetta nei cieli è il 1966, porta la bandiera della compagnia Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte sopra deserti, sopra oceani, sopra città. Realizzato interamente in metallo, con parti minori di vetroresina, dotato di due motori posizionati in coda di turbofan Pratt & Whitney GT8D7A. Dobbiamo essere precisi, perché quando ti interrogano, dice una professoressa, dov'è? Mi ricordo, quando ti interrogano. Bisogna sempre essere preparati, che l'equipaggio è formato da due piloti, due assistenti di volo, che ha una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, tutti disposti in file di 5 sedili con corridore centrale, e che quel giorno nel computer della compagnia Italia si contano 77 nomi, oltre al 4 dell'equipaggio. Porta, dicono, un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Nel 1980 è di proprietà di una società che si chiama Italia S.P.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato e pulito ogni settimana. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel 19, ve lo ricordo, è come un muro, una bestia, che più lo carichi più è felice. Più li metti benzina, e che felice. Lo fai volare, più felice. Il 19 atterra all'aeroporto di Bologna e Borgo Panigale, che sono le 19:03, e già c'è il suo carico di ritardo. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante all'aerostazione, piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 65 metri, non uno di meno, salone delle partenze, e lì, che sono ancora impazienti, i passeggeri del volo Italia, IH870, l'orologio, il polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra. Cosa mi ha detto? Ha intuito qualcosa? Cazzo c'è da intuire? Devi aspettare, tra poco si parte. Ma forse avrebbe detto, no, non ha detto niente, devi aspettare. che c'era Giacomo Filippi che era gestore di una fabbrica dei suoi gelati, che c'era Vito Fontana con la moglie Francesca e figlio Carlo che venivano da Parma, e che c'era Antonino Greco, un agente di pubblica sicurezza. 19:30, si prega i signori passeggeri di legato in forza dell'Italia, diamo inizio alle procedure di imbarco. Dice che c'era un fotografo ambulante che si chiamava Giuseppe Latina. E poi c'era un assicuratore, un maresciallo di pensione alla Guardia di Finanza, e c'era un'albergatrice con sua sorella, Rita. Nomi comuni. Persone normali. Volte che tu puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio domenica, vicino agli tavoli, in una trattoria, ad un concerto, non mi cognome né se. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio, sono Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, Corsica, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, Romano, primo ufficiale di lotta. Rosa De Dominicis, 21 anni, Romana, allieva hostess. Paolo Modici, 39 anni, Romano, assistente di volo, responsabile di seconda. Tutto a posto. Sono le 19:55. E le porte si chiudono, tutte sigillate. Nessuno può scendere. 63 adulti, 14 minori di cui 2 neonati, 4 membri di equipaggio, uno nel posto assegnato, stanno chiusi, protetti nel ruolo 19. E fuori la pioggia intermittente o essere andata da fuoco. Italia è aperto 7-0, welcome aboard, benvenuto a bordo. Che non so a voi, ma metti che le volte che mi spiegano come devo mettere noi i seggiolini, io mi tocco i coglioni. Perché speri sempre e non che dici. Mi raccomando, le istruzioni, non dirmele. Mi metti un piccolo messaggino, metti il telefono, un sms, lo guardo dopo. Lo guardo, è andata bene, ho avuto culo. Il comandante si presenta, illustra il piano di volo, le ossa si ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli, come gonfiare il salvagente in caso di emergenza, così prescrivono tutte le norme di sicurezza, torre di controllo di Bologna, da delibera. E il 19 si muove in direzione della pista molto lentamente, poi si posiziona. La radio dice che gracchia, ma la voce dell'operatore era in bomba dentro dalla cabina del pilota. Bologna Ground, siamo pronti per la messa in moto. Italia 870 autorizzato, temperatura 24. Stop orario sull'ora, avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo una lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Che sopra c'è il cielo azzurro e sulla destra e sulla sinistra si scorgono gli ampi aerei negli hangar, ci sono ancora i capannoni e ci sono gli alberi più là delle verdi colline di Bologna e ci sono le ali dell'aereo che sono perpendicolari alla pista e vicino che porta una scritta con delle cenere, ITC. 20:02 a rullaggio. Italia 270 autorizzato a Palermo via Firenze, apre la 13. Salire e mantenere il livello di volo 190, ripeta e chiami pronti al decollo. Attenzione. Ambra sono le autostrade del cielo. Sopra l'Italia ci sono decine e decine di autostrade del cielo, o l'una a una. Quando ti dicono Ambra 13, Beh, la Ampa 13 è l'autostrada di cielo che porta la Bologna verso la Sicilia. Ne incrocerai altre, però c'è sempre Ambra, è un'autostrada di cielo. I motori sono a piena potenza, vibrano poco prima della partenza, gli strumenti non registrano alcuna anomalia, tutto perfetto, ogni strumento sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti la manetta, rilascia i freni, le ruote macinano decine di metri, poi ancora decine di metri e l'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza che si imprima sulla pista e poi ci sono le bardate a destra e a sinistra. I flap scendono dal dorso delle ali e c'è questo leggero movimento che è impercettibile, che fa così, che tu non te ne rendi neanche conto, che prima eri lì, no? E poi, caspita, guardi giù da fine secondo, mi dici, cazzo, sono 300 metri, quanto tempo ci ho messo? Un secondo. È incredibile volare. Gli hanno segnato un numero, IH870. Sale sull'Ambra 12, autostrada del cielo, numero 12. E a un certo punto si sente. Italia 870, decollo degli 8. Cambi con Padova di informazione. Cosa succede quando vuoi? Succede che ci sono delle grandi orecchie del cielo. Le grandi orecchie sono quelle che ascoltano. Ma le ascoltano tutti. Le ascoltano quelle persone che sono autorizzate. E tutte quelle persone che sono autorizzate sono collegate tra loro. Attraverso un sistema di assoluta e totale sicurezza. Almeno. Così dicono. Però io posso parlare, che sono da Bologna, posso parlare con Poggio Ballone, che sta a Rosseto. Oppure posso parlare con Ciampino, che sta a 600 km di distanza. Oppure posso parlare con Massara, che sta in Sicilia. Oppure posso parlare con Padova, informazione. Compare la Fidura 870, arrivederci, Bologna. Pochi secondi il pilota si collega con Padova per informazioni. Padova, buonasera, qui è la 870. Italia 870, prosegua come autorizzato, mi chiami poi Firenze. Bologna, Firenze, prende Padova. Sono le 20.07.00. E sono grandi occhi elettronici puntati su quell'aereo la sera del 27 giugno dell'80. Ci sono i radar civili e i radar della difesa. Quello militare di Ferrara segue la sua traccia con un numero accanto, LE157. Sono le 20:20:26. Dice nome si trova allineato al radiofaro di Firenze. Il viaggio continua, il pilota prende contatto con Roma Ciampino. Buonasera, radar di Roma. Buonasera. Qui è IH870. Buonasera, qui è IH870. Inserisca dentro nel trasponder 1136, così io lo ascolto. Così lo autorizziamo a Corsera, Puma, Latina, Pozza, Amba 13. E arriva a Palermo, tranquillo. 1136 sta arrivando per lei, Palermo, come la piana di volo, sufficiente, praticamente mantiene la 190. Allora, e 19, vira a sinistra, in bocca all'Ambra 14, Ambra 14, autostrada del cielo che percorre la dorsale Pedinico verso sud. Il sole sta calando dietro la linea dell'orizzonte, ma il tramonto ancora c'è bisogno di tempo. Per i passeggeri sono risati, discorsi, pensieri, ricordi, angosce, dubbi, quelli di una vita, 20, 23, 38. 870, Fede Sarzella a Firenze, siamo prossimi al Peretto, da 15.000 frughe, ci richiami 20.000, ok, stabilizzato? Sì, sono stabilizzato. Nessuna turbolenza, ogni cosa sembra sotto il controllo di radar, 20, 24, 45. 21.000 per 870, salga a 2.30, salga a 2.30, lasci 1.00, 20.26. Il mulo è inarrestabile, non lo ferma nessuno. Pilota, comunico ancora con il radar del centro di controllo di Cerpino. 870, identifichi. Arriva, arriva, è sotto il radar, eh? Vediamo che sta andando verso il Grosseto. Ma che prua! Che prua! La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Ci dobbiamo ricredere, noi, sulla funzionalità del VOR di Firenze. Eh sì, in effetti, qua. Non è che vada molto bene, eh? Allora ha ragione il collega. Eh sì, pienamente ragione. Allora, circa che cosa... Cosa dobbiamo fare a questo punto? Ecco, vedo che sta rientrando, eh? Quindi praticamente diciamo che adesso è allineato. Ma che va questa prova? Oh! Ma noi non ci siamo mossi. Controllo di seguire la traccia del 19. Gli appare sullo schermo e mantiene contatto con l'aereo, sono le 20, 34, 50. Buonasera, 870, 290 su Corsera. Contatto radar come autorizzato. Bene, bene. Alle 20, 39, 43, Ciampino consiglia al pilota del 19 di cambiare la frequenza della radio. D'ora in poi trasmetterà sui 134,2 MHz. 870, 142. Buonasera, grazie, buonasera, prego, prego. Mi sente bene, bene. 20 e 40. L'aereo a questo punto giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ampa 14 e la Green 23. Green 23. È un'altra autostrada del cielo. Le carte militari aeronautiche si chiama Puma. Allora, lui che fa? Viene a destra, abbandona la Mar 14, taglia verso il mare, sovvola pratica di mare e sopra la lunga distesa di acqua. Vai. Vai, vai, vai. C'è solo il macchia nero, vai. 20, 44, 44. E la 870, buonasera Roma. Buonasera 870, buonasera. Mantenga 290, richiamerà 13 alfa. Si sente? Bene. Oh, neanche Bozza funziona. Abbiamo trovato un cimitero noi questa sera. Che tutte le volte che chiamavamo, oh, non rispondeva nessuno. Poi avevo pensato che fosse una partita. Ma non c'era la partita quella sera, no? E poi si chiamavano e non trovavano. Guardi, è un po' tutto fuori qua. Compreso il Ponce, è tutto fuori. Ma lei, in prua, quanto ha? 195, 195, va bene, va bene. 195. Mantega così, andrà un po' più giù di Ponce, di qualche minimo. E comunque 195 può anche mantenerlo anche per una ventina di miglia, non di più, perché c'è molto vento da ovest. Al suo livello dovrebbe essere di circa 100-120 nodi di intensità, e sì, in effetti qui abbiamo fatto anche dei calcoli, che eravamo qua perché c'erano un cazzo da fare, no? E se uno non ha cazzo da fare, si mette a fare i calcoli, oltre che a pilotare un aereo. E li continuiamo a fare le domande. Ecco, non lo so. Se vuole continuare ancora con questa cura, ti metti a corsi a destra, anche un 15, 20 gradi. Ok, mettiamo per 2,10, sì, 2,10. Per 19, a questo punto chiede di scendere a livello di 25.000 piedi, attenzione, questi sono i momenti più importanti. Ottiene l'autorizzazione alle 20:46:31. E da 870 è possibile avere 250 di livello? Va bene, puoi scendere anche adesso. Scendo adesso? Scendi adesso. Alle 20:50 sull'isola di Ponza. La sorgola di bocca alla Rubiembra 13 che va giù dritta fino a Tripoli. Passando per Palermo, punterai sull'aereo d'attesa alle 21:13. Prova a vedere l'aereo passare leggermente spostato da ovest dell'isola e chiede al pilota di richiamare sull'Anda 13 a 80 km più a più di Ponza, 3 minuti prima delle 21. Pilota del 19 esegue l'operazione, richiama dal punto alto dove termina il servizio, poi la copertura del centro di controllo di Roma. Questa è l'ultima comunicazione del 19 con Ciampino. 115 miglia per Papa Alta, per Papa Romeo Serra, scusate, mantiene 2,50. Ricevuto IA470, ricevuto. Rai, lo stimiamo intorno ai 13. Arasi, nessun ritardo, chiameremo per la discesa, 870. L'aereo si trova a metà circa da Ponza e Ustica. Questo punto aeronautico si chiama punto Condor. 20:58. Il pilota chiama la sede di controllo di Palermo Punta Raisi. Calma di vento, temperatura 23, autorizzata ai 15, altimetro 1013, molto bene. E ci sono le grandi parabole della difesa aerea che perseguono. Le 19 nulla di più di un piccolo puntino che si muove in mezzo ad altre tracce, se ne conteranno 24. Tutte ancora da decifrare, anche un traffico fuori dal comune. Il sito di Massara, nome codice Moro, il sottufficiale sta proprio davanti allo schermo, segue tutti i punti che si spostano in lungo e largo nel terreno. Per il 19 Italia, gli A470 ha già pronto un codice di identificazione, AJ421, edisce. Da vedere che quello dietro mette la freccia sorpassa. Ve lo ripeto. Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa. Quello ha fatto un salto di canguro. Punto Condor, 20:59. Prima c'è una barzelletta, una risata. Alla fine, quella del pilota del 19 sarà l'ultima parola ingoiata di traverso. Forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore, la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello, la radio proprio non la riesce ad attivare, la paralisi, una frazione di un secondo, un attimo. Wow. Si perdono le tracce, si perde il 19. L'arma finisce l'area del radar di Ciampino, punto Condor, poco più a sud. È profondo, il buco nero della copertura del radar del traffico civile. Se non lo riesci a superare, è veramente un pericolo rimanere fino in fondo. L'aereo dovrebbe riapparire sugli schermi radar di avvicinamento di Palermo. È come un buco proprio, no? L'aereo passa, non vede nessuno, per pochi secondi, 3-4 secondi, poi riappare. Va dall'altra parte, come in una galleria, non riappare niente. Nessuno vede dall'altra parte. Punto Condor, 39 gradi, 43 primi nord, 12 gradi, 55 primi est. Il viaggio del 19 e gli altri 870 si conclude pochi secondi prima delle 21. Siamo 4 minuti e 15 secondi dopo. E il 19 non comunica più con Ciampino. Neppure con Palermo. Dalla radio c'è silenzio. Silenzio. E tu continui a cambiare le frequenze come quando eravamo bambini che ascoltavamo la radio e la musica dalla radio. E quando prendevamo il segnale che ti cazzo anche una bestia, dice il cazzo, che vuole ascoltare i GBL, e invece mi fai sentire Orietta Berti. E si capisce perché l'Italia è così. Perché l'Italia non ha ascoltato Jimi Hendrix. Italia 870, quanto pronto autorizzato, 110. Le chiamate lasciando il 290 attraversando il 150 in Italia 870 Roma. C'è questo fruscio come quelle radio mal sintonizzate che producono soltanto fastidio alle nostre orecchie, che c'è un silenzio che preoccupa molti quella sera d'estate. Così a un certo punto il Ciampino chiama Punta Raisi, che vedete che magari loro l'hanno visto. Passo il controllo con l'870, controllo con te per caso? No. Passa un minuto, Roma tenta un'altra volta. Ora chiamo un aereo della Air Malta che sta a poche miglia dal punto coro. Air Malta, this is Rome. Rome, go ahead, this is Air Malta. Al pilota della Air Malta chiedono di chiamare il 19, lui esegue. Italia 870, do you read? Roma chiama ancora Palermo. Allora, fammi una cortesia, Italia 870, non ce l'ho il contatto. Ho capito, guarda se lo vedi sul radar, non ce l'ho! Non ce l'ho. Sono le 21:14. Italia 870 non risponde, sparito nel buio, sparito dai radar, caduto nei fondali del mare, con il suo carico di persone, piani di volo, bagaglio, chiavi, bambole, giornali, agende, quaderni, cappelli, divise, discorsi troncati a metà, sogni, speranze, rabbia, delusioni, progetti, sorrisi, abbracci, vite sospese. Ma Sara Chiara il comando di Martina Franca. C'è un Indian Hotel 870 che doveva arrivare a Palermo. Non c'è. A questo punto io non so che ti dirti. Spero non è. Non è stato avvistato da voi, ma che lo stiamo cercando anche noi. Quindi che sia necessario interrompere la Sinalex. Sì, sì, la stiamo interrompendo. Pronto, Bacca, Bacca! Shhh. Bacca! Il radio si chiama Bacca, è quello di Vico, la provincia di Napoli, anche lui dipende da Martina Franca. Sì, noi l'abbiamo visto in aerobia, ma l'abbiamo fatto freddo, comunque, Quercia sta vedendo, adesso ha detto che se riesce a trovare questo video, te ci fa sapere qualcosa. Confermiamo che non abbiamo mai controllato nessun contatto, ormai è certo. E dice che non è più cielo, non è neppure terra, è diventato mare e sabbia, laggiù, nel fondo degli abissi. E poco accanto ad una nave romana, a pochi passi da un vascello del XVII secolo, con la prua rivolta verso il caccia della Seconda Guerra Mondiale, oltre 3.700 metri in uno dei punti più profondi del terreno, tutti lo sanno. Controllori di volo militari, civili, vertici dell'aeronautica militare, dei servizi segreti, gli apparati di sicurezza dello Stato, perfino i politici, tutti lo sanno. Tale familiari delle vittime, che sono lì, che stanno attendendo all'aeroporto di Palermo Punta Raisi. quelli che da casa in casa di cittadini telefonici intasati dall'Italia, del Ministero della Difesa, dell'Aeronautica, cercano una risposta plausibile. Sono le ore del silenzio, tutto questo segreto lo tengono nascosto gelosamente. Qualcosa che lo Stato non può dire. A chi formula una domanda precisa, così semplice che tutti possono capire. Perché? Perché un aereo con a bordo 81 persone è partito regolarmente da Bologna 75 minuti dopo un normale decollo non dà segni di vita. Un tenente colonnello del reparto informazione e volo parla al telefono con il colonnello comandante del secondo reparto di Ciampino. Novità? Novità niente. Adesso stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono laggiù in Sicilia, i radar della difesa, no? E però sembra che hanno guardato quando glielo abbiamo detto. E noi si sperava che loro avessero seguito le petrarci, il TAR sotto, l'armata sopra, e avessero preso nota della posizione della sparita con la traccia. Però dice che non stavano guardando perché hanno un'esercitazione. C'era l'esercitazione. Sì, c'era l'esercitazione. Dice che vengono a razzolare diversi aeroplani americani. Io stavo pure ipotizzando un'eventuale collisione. Sì. Oppure l'esplosione in volo. Sono ore concitate, i telefoni che collegano tutti i siti civili della difesa sono caldi, sono le 22.04. Torre di controllo di Grosseto, conversazioni normali tra militari, microfono aperto, tutti sentono. Questo è un discorso che non si deve fare qui, dicevo. Allora è chiaro, eh? Non c'è bisogno veramente di soccorsi, scusa, no, non c'è bisogno dei soccorsi. Che dobbiamo soccorrere? Ascoltami bene. Io sono un tizio su un panto, non fare confusione, con un panto. E qua si prende, si distanzia, tutti distanzi da questo traffico in via. E il panto si fa mettere proprio lì, proprio sotto la faccia dell'aereo. E perciò l'aeronautico non si pensava a mettere, qui poi il governo è quando sono americani non valgono un cazzo. Quindi parliamo di radar. Ma tu, se ti dovessero interrogare e cascasse il mondo, non hai visto niente. È scoppiato in volo. E vedete in mattina franca, chiama alle 22.35 il maresciallo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Salvo maresciallo, c'è stato l'ufficiale? Guardi, dica a me per cortesia, non cerchiamo sempre gli ufficiali. Cioè no, perché è una cosa abbastanza seria, perché io mica mi metto a ridere. Benissimo. È caduto 11.9, lungo la rotta che porta da Bologna a Palermo, punto stimato 40 gradi nord, 13 gradi 20 primi est. Questo è il punto dove è caduto, non il punto dove è caduto, ma l'ultimo punto nord. E a lei chi gliel'ha detto che è caduto? Guardi che questo qui doveva atterrare 22.13 a Palermo. Sì, guarda che queste notizie ce le ho anche io tutte quante. Lei mi ha detto che è caduto, chi gliel'ha detto? Io penso che sia caduto. Ecco, lei pensa. No, ma le mie supposizioni sono abbastanza serie, pure le nostre purtroppo. Uno cerca sempre di sperare che non sia così. Se lei mi dice, io devo fare delle comunicazioni, lei mi dice che è caduto, io devo dire che è caduto. Guardi, questo qui l'ultimo contatto l'ha dato alle 20.56, però poi non si è più visto. Quindi se non è caduto in mare, io non so che cosa abbia fatto questo. Sì, questo, però siccome noi dobbiamo fare delle telefonate, un sacco di telefonate, se non siamo sicuri, lei che telefona a fare? Benissimo, un'altra cosa. L'ufficiale dell'ACC di Roma mi ha detto che in zona c'era del traffico militare americano, traffico militare. Ora io vorrei sapere se c'è qualche portaerei, perché in tale caso, se è così, noi mandiamo, chiediamo l'intervento degli americani. Se c'è un portaerei in zona, deve saperlo da Martina Franca, perché hai il radar in zona. Martina Franca non lo sa, se c'era portaerei in zona. E figuriamoci se lo sa lo Stato Maggiore, Come facciamo noi a sapere se c'è la potere lì? Che ne sono preso dello Stato Maggiore, il centro operativo, che cazzo state a fare? Se non lo sapevamo noi. Vabbè, allora vi ho informato soltanto di questo, adesso faccio un'altra telefonata, arrivederci, arrivederci, pronto! Volevo sapere, lei mi ha detto che è caduto o no? Perché se è caduto mi deve dire chi le ha dato le informazioni. Guardi, queste sono supposizioni che io sto facendo, va bene, ma la supposizione teniamocela da parte, va bene, senta. Allora, io agisco come meglio penso, mi accolgo tutte le responsabilità, perché non è che posso andare sul posto a vedere se ci sono dei cadaveri, puoi dire che effettivamente è caduto, va bene? Pronto? Sì, pronto! Quindi io agisco adesso e mi assumo tutte le responsabilità del mio comportamento. E perché non posso a questo punto, dopo un'ora che non dà più notizie, un'ora e mezza, dire che non è caduto. Sì, lo sappiamo anche noi questo qui, però voglio dire, chi ve l'ha detto? Maresciallo, io adesso devo fare altre telefonate. Vi ho informato del fatto come da circolare, arrivederci, arrivederci. Alle 22.39 tutti i telefoni. Ci sono voci che si intrecciano tra loro, ammiccamenti, frasi compiute, mischiate da accenti dialettali, del linguaggio parlato. Nessuno sa che la macchina intanto sta continuando a registrare. E registra. E registra ancora tutte le telefonate in entrata e in uscita. E registra. Accade all'interno della sala operativa del centro di controllo radar di Ciampino degli 80 civili militari. Allora io chiamo l'ambasciata. Chiama l'attaché. Ehi, senti, guarda, una delle cose più probabili è la collisione in volo con uno dei loro aerei, che secondo me è quindi. Ambasciata americana, buonasera, buonasera. All'interno tutti i nassi. Oh, però qui tra tutti i nassi anche quelli. Non c'è un cazzo di nessuno qui. Questi dovranno sentire anche, vabbè, comunicazioni telefoniche per il coordinamento, bisogna. Tutti gridano, tutti urlano e c'è una confusione dentro nel centro radar di Ciampino, voci che suggeriscono che sta chiamando l'ambasciata americana e altri intervengono, ognuno sembra parlare per i fatti propri, ma il senso di tutti i discorsi ci sta tutto. È come se io avessi messo una maschera. Come quando sali sul palco fai spegnere tutte le luci, via, tutti. Solo pubblico, solo attore pubblico, via tutti gli altri, via. Si chiudono le luci, maschera, via la maschera, sulla maschera, più la maschera. Ma qui non c'è un palcoscenico, non ci sono spettatori. Qui non c'è un biglietto d'ingresso, quello lo hanno già pagato i passeggeri, un prezzo da usurare, ancora dall'interno. Senti, scusami, tanto l'esercitazione interessava semplicemente aeroplani americani, no? No, non c'erano solo gli americani. Ma chi c'è? Ambasciata americana. Ci sarebbero 81 persone morte, quindi penso sia abbastanza importante da chiamare qualcuno. Allora, cittadinanza dell'ambasciata americana comprende il significato della frase prende tempo. Ok, aspetti un momento. Nel centro di controllo di Ciampino, ormai la tensione è alle stelle. Ti parlano ruota libera, termini tecnici, inflessioni in romanesco, tracce che scadono dai radar, esercitazioni in corso sul terreno, aerei americani fatti ma battuti, quel 19 proprio lì in mezzo, ci sarebbero 81 persone morte, quindi penso che sia abbastanza importante chiamare qualcuno, ma dai, molto di più di uno strano presentimento, chi c'era? Chi c'era? C'era un'esercitazione, c'era un'esercitazione in giro nato. Beh, guarda, dalle 10.30 alle 15 la Patricia, fino a che ora? Ma direi fino alle 15. 15 avete avvertito quel COP lì, allo Stato Maggiore, lì c'è il COP là, il COSA. Adesso Bologna ci manda tutti i dati. Porfirio ha chiesto, c'ha 2 ore e mezzo di autonomia. Quanto? 2 ore e mezzo! L'autonomia, il tempo in volo quanto era? Ma il tempo in volo 75 minuti, quello ha detto pure a me, comunque adesso Bologna mi ha dato tutti i dati. E dall'altra parte si sente così. 18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, 20.58. Ci siamo adesso. Sta scadendo la traccia, non c'è più la traccia. Il militare che parla si riferisce alla traccia del 19, che sparisce nel nulla. Allora lo riabbiamo, Palermo, no? 18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.58. Via. Aspetta 5 minuti, Mario, guarda, l'autonomia sta scadendo, qui da 5 minuti, è scaduta già, scade, no, 42, è scaduta la 38, è scaduta, 42, è solo il 42 adesso. Potete fare il messaggio, potete pure dire, l'ho fatto, l'hai fatto, sì. Ma glielo hai detto a loro? Questo mi sta chiamando qualcuno, mi sta chiamando lei alla stazione, da casa. Ma tu hai coordinato con loro? Sì, sì. Mi hanno detto loro di contattare se voglio io direttamente. Ma tipo dove? Ma avete avuto qualche contatto da Simonella? No, sul contatto ci penso, ci dovrebbe pensare Martina Franca. Dovrebbe pensare Martina Franca. Pronto. Un momento per favore, qual è l'aeroporto? Bene, di fatto chiamiamo dal controllo di Roma, qui l'aeroporto di Ciampino, ok, un momento. E sempre dall'interno. Mi dai sto appunto? Aspetta, mo vediamo, deve prendere guarda dei no, gli devi. Dalle frequenze su chi ha lavorato. E la linea telefonica è stato fatto il trasferimento. Ma scusami, tanto una cosa, ma di quelli che hanno fatto il soccorso, eccetera, c'è nessuna notizia di questo genere, visto che questi lo chiederanno, ce lo chiederanno, abbiamo niente di niente dal soccorso, nessuno ha trovato niente. Allora dicevo, le comunicazioni del trasferimento dell'Italia è chiaro, visto che è venuto da Bologna, quindi diciamo, ha trasferito, e la linea telefonica. Quella sera c'è di tutto e di più. Eppure, molti anni dopo, quella sera, siamo ancora qui a ricordare. Siamo ancora qui a ricordare che 44 anni fa veniva abbattuto in volo un aereo civile e 44 anni dopo non c'è nessuna giustizia. E forse nemmeno una verità. Ma noi che abbiamo lavorato su questa vicenda, conosciamo molti le retroscena dell'abbattimento del 19 dell'Italia. Una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessun incidente aereo, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder rigorosamente spento. Cos'è il transponder? Il transponder è il messaggio che dà l'aereo alla centrale operativa. Quando vengono fatte delle iniziative militari, l'ordine è quello di spegnere il trasponder. Tutti gli aerei hanno trasponder spento, tranne uno. e 19 dell'Italia 870. Anni di accertamento, di istruttoria, di 2 milioni di atti giudiziari, perizi e controperizi. Alla fine i giudici assolvono i generali Zeno Terzo, Corrado Merillo, prescrivono il reato di alto tradimento per i generali Franco Ferri e Lamberto Bertolucci. Quella che vi ho raccontato questa sera, che mi avete dato la forza di raccontare, è la storia di passeggeri dentro un aereo decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tante d'estate, calda e con cielo limpido, gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operativi, solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolzena, Ponza, un viaggio di routine, una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, a poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e il centro di radar, tutto normale, ma in un paese che nel 1980 è ancora oggi è anormale, perché è un paese a sovranità limitata. Ditelo in giro, che ve l'ho detto io, che noi cittadini italiani pensiamo di avere una sovranità. Punto pensare. E appunto se te lo lasciano fare. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi finalizzata alla neutralizzazione della verità. E questa è la storia di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio, nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne e bambini, partiti felici e seduti da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati sorridere, mai lasciati scendere, nel giorno in cui la nostra coscienza nazionale è sprofondata negli abissi del mare a Tirreno. A Ostica nessuno è stato. Che forse un giorno ci diranno che l'aereo Italia degli H870 non è neppure partito dall'aeroporto di Bologna. È partito. No, non è mai partito. Dedicato ai familiari delle vittime, dedicato ad Andrea Purgatori, uno dei pochi giornalisti con la schiena dritta. Con il giornalista Daniele Biacchessi per presentare il suo spettacolo Ustica.Condor. Ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federico. Di cosa si tratta? Si tratta della riedizione di un vecchio spettacolo di 22 anni fa che marciava parallelo ad un libro che si chiamava Ustica.Condor, che ho scritto nel 2002. Era un libro scritto con Fabrizio Colarietti, un giornalista reatino. Insieme avevamo messo anche sul web, ed è ancora visibile, il più imponente sito saggio80.it, dove sono finite tutte le documentazioni, audio, video, tutte le inchieste, tutte le indagini, ed è stato poi aggiornato, lo abbiamo aggiornato nel corso del tempo fino ad arrivare a questa monumentale opera che trovate sul web. Contemporaneamente all'uscita di quel libro io ho cominciato nel 2010 un viaggio per l'Italia di 35 date con il racconto di Ustica. Erano anni molto diversi per il teatro, ma come sai io sono stato il primo giornalista a calcare il palco facendo monologhi di teatro civile o di teatro canzone, prima da solo e poi con i gay, Massimo Priviero, Gaetano Liguori, Michele Fusello, moltissimi altri. Oggi i reading, il teatro civile, il teatro canzone, tutto quanto è diventato una moda, perfino gli psichiatri fanno spettacoli teatrali con effetti che sono a mio avviso interessanti, sotto certi profili e nefasti sotto altri. Gli spettacoli teatrali di questo tipo devono essere fatti dalla comprensione attraverso altri linguaggi di una vicenda così terribile e così senza una giustizia, ma anche con una verità storica. Il racconto guarda come prospettiva quella delle persone che erano in quel 19, quella sera del 27 giugno 1980. E c'erano stati spettacoli, penso quello di Pippo Pollina, che guardavano come prospettiva l'aereo. Chi invece aveva dato, come Marco Paolini, che fosse lo spettacolo più imponente che era stato messo in scena non soltanto in teatro ma anche dal vivo in televisione, un aspetto più della costruzione di una verità che però ai tempi in cui appunto Paolini raccontava Ustica ancora non c'era, si avevano degli indizi anche abbastanza deboli ma non delle prove. Oggi noi sappiamo veramente cosa è accaduto, indipendentemente dal fatto che ci sia ancora qualcuno che crede alla bomba piazzata all'interno del 19. Io, come è stato il lavoro straordinario dell'amico Andrea Purgatori, che per tanti anni si è prodigato alla ricerca di una verità, penso che siano stati i francesi. E questo l'avevo già scritto insieme con l'Arieti nel libro appunto Condo Ustica il processo, che era stato fatto perché si stava aprendo un processo contro generali dell'aeronautica, uomini dei servizi, che poi purtroppo è finito in una delle tante migliaia ormai di assoluzioni per tutte quelle che possiamo definire strati di Stato. Oggi sappiamo che c'era un aereo che proveniva quasi certamente dalla Bulgaria, con a bordo Gheddafi, e c'erano anche due MiG. Uno di questi è stato ritrovato sulla Sila in Calabria. C'era una guerra quella sera, una guerra a cui hanno partecipato in molti, c'erano due portaerei, quella francese, Clemenceau, che era nel Mediterraneo. C'era cioè un'azione di guerra in cui il 19 è finito in mezzo a 23 o 24 aerei militari con le trasponder spento, che quindi è un segnale di un attacco di guerra, mentre invece purtroppo l'unico trasponder acceso era quello che era stato azionato dal comandante del 19 dell'Italia, Domenico Gatti. Analizzando poi tutti gli audio della scatola nera che io racconto come se fosse un unico racconto, è il racconto di persone normali che salgono a Bologna all'aeroporto Guglielmo Marconi una sera tranquilla il 27 giugno dell'80 e non li faranno mai scendere invece all'aeroporto di Palermo. Punto Condor invece è il punto aeronautico in cui avviene l'azione, che è un missile che colpisce il 19 per colpire in realtà un aereo con ogni probabilità il MiG libico, poi trovato sulla Sila, che si era piazzato sotto la pancia del 19 all'interno di un'azione di guerra. Quindi il 19 è diventato come una sorta di ostaggio per qualche secondo di un'azione di guerra. E poi la cosa più terribile avviene dopo, perché io racconto poi tutto quello che è il contenuto delle centinaia di telefonate che fanno capire come nei vari centri di ascolto, da Ciampino, poi Zaballone, da Massala a Gioia del Colle e molti altri, c'era la certezza di quello che era accaduto, perché gran parte degli operatori avevano visto sostanzialmente uno scenario di guerra e un aereo che invece dava segni continui di vita fino al momento in cui viene colpito e distrutto. È uno spettacolo per non dimenticare, certo, ma è uno spettacolo che fa capire alle persone qual è stato l'oggetto terribile, orribile del segreto di Stato in una vicenda come questa. Quando dico che sono stati i francesi, riporto le tante testimonianze dell'ultimo periodo, ma anche di tanti anni fa, dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga fino ad arrivare all'ex Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e anche del Generale dei Carabinieri Niccolò Bozzo, che sta in vacanza a Solenzare, che vede spiccare in volo una decina, grosso modo, di Mirage nella base aerea di Solenzare. Questa verità, che è stata sepolta nei cassetti della storia, ha bisogno di essere, a mio avviso, riraccontata. Ognuno di noi ha scelto una forma, quello del racconto e del monologo. Lo spettacolo è andato in scena a Montefiascone, andrà in scena nuovamente il 5 di settembre a Oriolo Romano. Per sapere dove lo porterai, ci dai tutti i riferimenti internet? Su danielebiachessi.it è un modo, poi su Facebook ho tante pagine dove ci sono tutti i miei spostamenti, tutte le mie conferenze che riprenderò a fare tra poco. Spettacolo ustica.condor. Un saluto e un ringraziamento al giornalista Daniele Biacchessi. A presto! A presto, ciao a voi! Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Francesca di Casetta Rossa S.p.A. per presentare la 22esima edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa, dal 3 al 14 luglio 2024. Ben trovata. Grazie Federico, sono felice di essere qui, di raccontarvi questa esperienza che va avanti da oltre 20 anni a Casetta Rossa, a Garbatella. E quest'anno, come dicevi, dal 3 al 14 luglio, con il sostegno della Fondazione Charmagne e il patrocinio del Municipio Roma 8. Tutti gli eventi che si svolgeranno durante la Festa dell'Altra Estate sono gratuiti, aperti a tutte e tutti. Perché per noi l'attivismo è proprio questo, è un impegno perché cultura, arte e bellezza siano veramente a disposizione di tutte e di tutti, siano davvero un bene comune, perché questo è il pensiero di tutti. La Festa dell'Altra Estate vede il coinvolgimento di pubblico diverso per età, per genere, per interessi. L'offerta culturale è estremamente diversificata. Quest'anno parliamo di sogno, della ricreazione attraverso la fantasia. Ogni giorno avremo concerti, DJ set, proiezioni, dibattiti, spettacoli teatrali, laboratori e quest'anno anche un mercatino dell'artigianato che ci accompagnerà tutte le sere. Mi preme ricordarvi gli appuntamenti per la cena: si può cenare alle 20 o alle 21.30 prenotando il tavolo, possibilmente al numero 06 89 36 05 11. Com'è stata la scelta degli artisti e delle artiste? Ogni anno è una scelta, devo dire, molto difficile e impegnativa. Partiamo tanti mesi prima perché sono tantissime le richieste di partecipazione, tantissime le idee, con uno spirito di attivismo veramente importante, bello. Tra artisti, giornalisti, personalità del mondo scientifico, letterario, intellettuali, vengono scelti tutti coloro che veramente hanno qualcosa da dire alla comunità e vogliono mettere a disposizione la loro arte, le loro competenze. Provo a fare una velocissima carrellata tra i tantissimi appuntamenti che cominceranno il pomeriggio alle 17.30 con laboratori, soprattutto per bambine e bambini, come La meraviglia della fantasia e delle emozioni, Oggi cucino io, il laboratorio di Aquiloni, uno spettacolo di Burattini, laboratorio di attivismo climatico, danza Afro Brasil, e poi gli appuntamenti, dei dibattiti con presentazioni di libri come Alice nel paese dell'Ambedi di Graziano Graziano e Italo Archives di Leonardo Palmisano, dibattiti su politica trasformativa delle pratiche di comunità. Avremo ospite la senatrice Maria Cucchi che ci parlerà del carcere e delle alternative di vita. Avremo un dibattito sul conflitto con Guido Viale e Di Marcucci, Gianluca Peciola si parlerà di femminismo e intersezionalità. Avremo dei documentari con quello per 25 anni del centro culturale Ararat o il progetto di ricostruzione in Rojava del nuovo cinema Amudei. Avremo la mostra delle illustrazioni di Giulia Nania e in particolare vorrei raccontarvi gli appuntamenti serali alle 21.30 di musica, l'attesissimo tributo a De André, De Pungito, al Sputta Bestia, Silvi Genovese, Massimiliano D'Ambrosio, Lavinia Mancusi e Mauro Menegatti. Tra gli altri, gli appuntamenti di teatro con Salento Blues, delle recensioni non richieste, con L'uomo nel diluvio di Simone Amendola e Valerio Malorni, con i 3 racconti belli e uno mio di e con Davide Grillo e con Stand Up Comedy C'è Figa. Come potete sentire da queste parole, l'offerta è veramente varia, è tantissima, e trovate i programmi completi e tutti gli eventi sui social di Casetta Rossa, quindi sia su Facebook che su Instagram, quotidianamente aggiornati con il programma completo. Casetta Rossa, vi ricordo, si trova a Garbatella in via Magnaghi 14. Crediamo molto nell'intercultura, nel bene comune, e questa è veramente una festa dell'altra estate, perché è una festa che appartiene a tutte e a tutti. 22esima edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa, dal 3 al 14 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Francesca di Casetta Rossa. A presto! Grazie! Con Anna Selva, curatrice della rassegna Sotto l'Angelo di Castello, quarta edizione a Roma al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, dal 3 luglio al 26 settembre 2024. Ben trovata. Buongiorno, ben trovata a te. Spieghiamo cos'è. Sono dei momenti, degli appuntamenti settimanali all'interno di Castel Sant'Angelo, che rimane aperto in orario continuativo una volta a settimana, durante la settimana, per offrire al pubblico sia di Roma che anche straniero dei momenti in cui possiamo presentare loro, passiamo dal teatro alla danza, pupi, musica, performance, un po' di tutto. Come si caratterizza questa edizione? Abbiamo 12 appuntamenti, partiamo alla grande con lo spettacolo Nature della Compagnia della Fortezza, diretta da Armando Puglio, appunto anche con i detenuti attori della Compagnia della Fortezza. Lui ha ricevuto l'anno scorso il Leone d'Oro ai 30 anni di carriera, Armando, e quest'anno insieme abbiamo presentato il progetto alla Direzione Generale dello Spettacolo, che ce lo ha finanziato, e quindi è risultato vincitore il progetto, appunto, anche di questo bando sulla valorizzazione del Ministero della Cultura. Insieme a loro troveremo più tardi, il 13 settembre, il combattimento di Tancredi e Clorinda. Anche con loro ospitiamo questo progetto, anche questo vincitore del bando di valorizzazione. Quello è però sulla danza, e in occasione dei 400 anni anche di Claudio Monteverdi. Quindi lì abbiamo musiche di Monteverdi, la regia di Fabio Kerti, Aper Balletto e coreografia di Filippo Kraft. Poi abbiamo il 10 luglio, che è l'anniversario della morte di Adriano, il nostro Roberto Latini, che sarà la voce di Adriano. E poi abbiamo Alessandro Quarta per la musica, la Factory con Amelie, un spettacolo meraviglioso per bambini da 5 anni in su. E poi la Gribaudi, che passa una performance che è a corpo libero sulla terrazza dell'Angelo. E poi sempre la stessa sera, il 7 agosto, invece abbiamo Grace. Vabbè, abbiamo Dimitri Greghi e Spinosa, 13 agosto, che ci fa due performance alle 19.30 e alle 21, sempre sulla terrazza, con il suo sax, la Cettina Donato pianoforte, One Piano Show. E poi abbiamo Mimmo Cuticchio con tutta la famiglia il 27 agosto, che ci porta l'Iliade o il riscatto di Priamo. E ancora musica, torniamo 5 settembre, Antonio Lizzana in quintetto, e quindi jazz e il ballerino di flamenco. Quest'anno sulla musica andiamo abbastanza intorno al jazz, ma seguendolo in forme diverse, quelle usuali. E poi vabbè, abbiamo un'altra sfida il 19 settembre, Lorenzo Bianchi che incontra Fabrizio Cassolo e Adele Diret. Passiamo dall'elettronica a strumenti invece più plastici. E poi vabbè, poi chiudiamo con questa performance per 3 giorni, Paradiso, gruppo Nanù, insieme a Alfredo Pirri e a Bruno Dorella, con le coreografie di Marco Valerio Amico e Rubina Bracci. E loro, le sale, saranno popolate dagli oggetti d'arte di Pirri e dai danzatori, dalla musica. Sarà un attraversamento immersivo per il pubblico, che può rimanere e fare ciò che desidera, nel senso portarci un minuto, portarci mezz'ora, e appunto attraversando le sale troverà dalle 19 alle 22, del 24, 25 e 26 questo. Tutto questo grazie al direttore generale dei musei Massimo Fanna, che ha riconfermato per la quarta volta di fare questo tipo di operazione a Castel Sant'Angelo, della quale cosa io lo ringrazio e ne sono grata. I biglietti sono in vendita online, si possono girare direttamente la sera degli spettacoli. Ricordo che l'ingresso agli spettacoli è consentito fino all'esaurimento dei posti disponibili, è incluso nel costo del biglietto del museo, richiedendo nel momento dell'acquisto la formula museo più spettacolo. Ci ricordi il sito per tutti i dettagli del programma? www.castelsant'angelo.beniculturali.it, sito Gebart. Poi abbiamo pagina Instagram e Facebook della nostra direzione, il Museo Castel Sant'Angelo, Facebook e stesso su Instagram che YouTube. Quarta edizione di Sotto l'Angelo di Castello a Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, dal 3 luglio al 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice della rassegna, Anna Selva. A presto! Grazie, ciao Federico! Con Claudia Appetito, fondatrice del Roma Unplugged Festival, terza edizione al Parco dell'Appia Antica dal 6 al 14 luglio 2024, ben trovata. Grazie. Sì, quest'anno questa terza edizione comprenderà anche una nuova location molto bella, che è la dimora storica Casale delle Vignacce, che è entrata appunto a pieno titolo in questo bellissimo festival e che accoglierà i concerti maggiori, quelli appunto di Noemi, di Bocante con Michael League, Omar Sosa, Trilo Cugurtu, Maria Pia De Vito, l'Orchestraccia, Adriana Calcagnotto e tanti altri. Quanti sono gli eventi e quanti i luoghi? Sono 9 concerti più tantissimi racconti di storia, perché in questo progetto si unisce anche il Parco Archeologico con noi e all'interno del mausoleo di Cecilia Metella, Gaston Caetani affronterà appunto questo tema dei racconti di storia che parlano ovviamente di Appia Antica e di tutta la sua meravigliosa storia. Questi eventi saranno nei 3 luoghi, appunto, oltre al Casale delle Vignacce, alla dimora storica, saranno nei 2 mausolei. Inizieremo proprio con quelli: mausoleo di Romolo all'interno della villa di Massenzio, con Naomi Beryl in una bellissima lezione concerto e un suo concerto che è Sea Warrior, con una premessa della dottoressa Loreti che parlerà di Annia Regilla, la moglie di Erode Attico. E a seguire invece avremo un bellissimo appuntamento la mattina seguente, il 7, nel mausoleo appunto di Cecilia Metella, sempre con Naomi Beryl ma in duo, dove si parlerà invece della complessa storia del complesso di Cecilia Metella, Castro Caetani. E a seguire appunto da lì, dalla sera, con Noemi invece approderemo al Casale delle Vignacce, la dimora storica del Lazio. Com'era partito il progetto e come si sta sviluppando? Il progetto nasce 3 anni fa, da un'idea in realtà del direttore 15 del Parco Archeologico, che propone a me e a Gianluca Picchini, direttore artistico del Roma Unplugged Festival, di creare un progetto unplugged, quindi sostenibile, che unisse insieme ovviamente la meraviglia del Parco Archeologico con i suoi siti, quindi i principali siti archeologici, soprattutto in questo caso le ville imperiali, che sono quella di Massenzio e quella dei Quintili, alla musica, e quindi che la musica diventasse veicolo di valorizzazione di questi luoghi. E da lì, prima in realtà c'è stato tanto Covid purtroppo, e invece poi siamo riusciti a partire 3 anni fa. Da quell'idea è nato questo progetto. Abbiamo inaugurato peraltro 3 anni fa proprio con Vinicio Capostella, con un progetto Site Specific che parlava proprio di Appia e di questo meraviglioso cammino che raggiunge Brindisi. Com'è stata la scelta artistica? Ha cercato di coniugare intanto progetti che potessero essere declinati a un progetto unplugged. La stessa Noemi e la stessa Orchestraccia verranno con 2 progetti eccezionali, appunto, molto più acustici. E quindi lei sarà piano e voce, loro saranno in una versione totalmente nuova, eccezionale. Uniamo tanto jazz, ma anche tante contaminazioni dal mondo. Quindi in questo caso addirittura abbiamo il progetto di Bocanté quest'anno, che unisce 4 continenti. Maria Pia De Vito, che mette al mondo questo nuovo figlio progetto meraviglioso che è Mother, e che unisce appunto Cuba e India in questo nuovo concerto. L'idea è quella appunto di intanto di utilizzare la musica come veicolo sicuramente di cultura e di valorizzazione, ma anche nel rispetto del luogo magico in cui ci troviamo. Quindi è per questo che cerchiamo di fare questa scelta. Quest'anno ad esempio stiamo facendo un progetto anche con ATAC Mobility Partner, che ci aiuta a portare le persone più possibile attraverso il prolungamento e il potenziamento sia del parcheggio di scambio di Arco di Revertino che del 6,60, per portare le persone ovviamente con i mezzi pubblici. Addirittura il parco regionale aderisce in questo progetto con una visita guidata gratuita che condurrà le persone dal capolinea fino a noi, in cui appunto si parlerà proprio di tutta la storia delle vigne e delle ville che abitano l'Appia da sempre. come quella anche del Casale dei Vignacci, che addirittura nasce su appunto una dimora storica di epoca romana, quindi anche quella era già agricola. Tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? Sul nostro sito e anche sui nostri canali social. Il sito è www.romaunpluggedfestival.it e poi ci sono ovviamente i canali social di Facebook e Instagram che ci accompagnano. Ovviamente tutto questo lo potrete trovare nei siti anche dei nostri meravigliosi partner, quindi sia del Comune di Roma, che peraltro sostiene questo progetto con un contributo, ma anche del Parco Archeologico dell'Appia Antica e del Parco Regionale dell'Appia Antica. Terza edizione del Roma Unplugged Festival al Parco dell'Appia Antica dal 6 al 14 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla fondatrice Claudia Appetito. A presto! Grazie a voi! Con Giorgio Andriani, co-direttore artistico della quarta edizione del Festival Sempre Più Fuori a Roma, dall'8 al 19 luglio 2024, ben trovato. Ben trovato Federico, ben trovato a tutte e a tutti. Spieghiamo cos'è. Sempre Più Fuori, giunta alla sua quarta edizione, è un festival multidisciplinare, vincitore del bando dell'estate romana, che abita, nel vero senso della parola, due spazi veramente magnifici della città di Roma, l'Accademia Tedesca Villa Massimo e il Goethe Institute, appunto dall'8 al 19, proponendo una programmazione di teatro, musica, arte, fotografia e anche approfondimenti su argomenti, diciamo, del contemporaneo, proponendo un dialogo costante tra quelli che sono forse già considerati dei cult della ricerca contemporanea con la nuova scena emergente. Come si caratterizza questa edizione? Sicuramente una grande novità di questa edizione è l'apertura all'internazionale. Infatti l'8 e il 9 luglio inaugureremo appunto la quarta edizione con una compagnia catalana, Agrupazione Signor Serrano, che proporrà il loro mitico spettacolo The Mountain per la prima volta a Roma. Uno spettacolo che ci mette di fronte a ragionare sui limiti dell'uomo, appunto scalando la montagna più alta del mondo, e da lì vediamo uno sguardo sulla realtà, sul contemporaneo e soprattutto sulle tecniche. Com'è stata la scelta artistica? Come sempre io e Antonino Pirillo, il co-direttore del festival, cerchiamo di riproporre quelli che un tempo venivano chiamati anche un po' il repertorio delle compagnie, cercando di far conoscere a un pubblico anche nuovo, delle nuove generazioni, ma anche un pubblico già affezionato, spettacoli che hanno significato qualcosa nella ricerca contemporanea. Ecco perché appunto The Mountain di Agrupazione Signor Serrano, Sera sono in vena, lo spettacolo cult di Oscar De Summa, che quest'anno compie 10 anni e viene riproposto e riallestito in una nuova versione con un quartetto dal vivo, oppure Pinocchio di Babilonia Teatro, giunta alla sua 11ª anno di vita. Quindi sicuramente uno sguardo verso appunto il repertorio delle compagnie storiche della ricerca contemporanea, ma allo stesso tempo uno sguardo anche alle nuove generazioni. Proporremo Sid della compagnia Cubo Teatro con un bravissimo attore maranchino, anche vincitore dell'UBU Under 35 2023. Quanti sono gli appuntamenti e come saranno suddivisi nei diversi spazi? Sono molti gli appuntamenti, alcuni anche in contemporanea, perché non ci facciamo mancare niente. Dall'8 al 16 luglio saremo a Villa Massimo, l'Accademia Tedesca di Villa Massimo, dal 15 al 19 invece al Goethe Institute. La prima parte a Villa Massimo sarà dedicata più che altro alla presentazione degli spettacoli, invece dal 15 luglio al 19 al Goethe Institute avremo la possibilità, oltre a vedere 3 mostre, di cui una di arte contemporanea organizzata in collaborazione con la Galleria di Arte Contemporanea Zerinska, una fotografica a cura di Laila Pozzo che ci proporrà di dietro le quinte con i ritratti delle protagoniste del film di Roberta Torre, Le Favolose, e poi presenteremo una video installazione artistica Terre Sconosciute, che è l'esito di un laboratorio che è stato condotto da Paolo Di Mipi in questi anni e in questi mesi presso Villa Pia, che è un centro di degenza per pazienti affetti da disturbi alimentari. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? il nostro sito www.sempreppiufuori.it e le nostre pagine Facebook e Instagram Sempre Più Fuori. Vi aspettiamo numerosi anche quest'anno in questi due meravigliosi spazi che, ricordiamo, non sempre sono accessibili al pubblico. Quarta edizione del Festival Sempre Più Fuori a Roma dall'8 al 19 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Giorgio Andriani. A presto! A presto, grazie a tutti. Con Tomasz Kirenczuk, direttore artistico della 54esima edizione del Sant'Arcangelo Festival. A Sant'Arcangelo di Romagna dal 5 al 14 luglio 2024. Ben trovato. Buongiorno. Raccontiamo cos'è questo festival per chi non lo conoscesse. Prima di tutto, Sant'Arcangelo Festival è una rassegna storica che ha più di 50 anni di storia. È un festival che praticamente dal suo inizio presentava un dialogo pubblico, politico, sociale importante, che proprio dalle sue prime edizioni sosteneva anche la sperimentazione teatrale performativa anche di artisti emergenti, e diciamo che queste linee sono molto presenti anche nel nostro lavoro oggi. E poi c'è anche un'altra dimensione di questo festival che riguarda proprio la connessione tra festival e la città di Sant'Arcangelo. Ricordiamoci che siamo una città abbastanza piccola in cui abbiamo 20.000 abitanti, e in questo festival ogni anno accade questo grande festival con più di 30 compagnie, 180 repliche, workshop, talk, DJ set, eccetera eccetera. Si parla di una rassegna, un'arte performativa veramente molto ampia, che poi anche porta uno sguardo importante al mondo, perché il festival ha la sua dimensione internazionale e ci possono vedere, oltre super interessanti artisti italiani, anche gli artisti che vengono praticamente da tutto il mondo. Come si caratterizza questa edizione? Per quanto riguarda tematiche, ci sono queste che riguardano le pratiche decoloniali, le pratiche antiraciste, l'arte femminista, estetica queer. Sono le tematiche che sono molto molto presenti, ma dal punto di vista più drammaturgico e estetico, io direi che quest'anno è molto presente lo studio che fanno gli artisti verso la ritualità, una ritualità laica chiaramente, che riguarda proprio atto performativo come un atto in cui i diversi corpi si riuniscono in uno spazio comune e provano di far partire, di far vivere una comunità, una collettività temporanea. E questi elementi li vediamo nei lavori come quelli di Dalila Belasa, l'artista francese di origine algerina, che nel suo spettacolo Reef, con cui chiudiamo il festival il 14 luglio al Teatro Gali di Rimini, riflette su un passo tradizionale delle danze algerine per costruire uno spettacolo veramente ipnotico. Poi anche Lisa Verterbrugger, un'artista belga, l'abbiamo preso il titolo di questa edizione, Why We Are Here, è uno studio di Lisa sulla cultura rave, sulla cultura techno messa insieme con le danze tradizionali belghe. Poi sempre in stessa ottica anche Claudia Castellucci, importantissima artista italiana che nel lavoro si chiama Murillo, riflette su elemosine, sull'atto di chiedere elemosine, o Pancetti di Coni, un altro duo italiano importantissimo, che anche loro portano in palco un certo tipo di ritualità. Dall'altro lato ci sono altri artisti come Marvin Tumo o Davi Pontes e Wallace Ferreira. Marvin è un artista francese che viene da Guadeloupe, Davi e Wallace sono gli artisti brasiliani da Rio de Janeiro. Loro creano un certo tipo di ritualità decoloniale. Allora vediamo che le tematiche, le estetiche sono molto molto ampie. Nel complesso, quante sono le compagnie e gli artisti e le artiste presenti? Quest'anno noi presentiamo il programma di festival 30 compagnie italiane e straniere, e poi le repliche sono veramente molte. Magari qui condivido anche qualche parola su un lavoro molto particolare che si chiama Nester, che è uno spettacolo one to one, che è uno spettacolo per solo uno spettatore. È uno spettacolo che porta qua un artista finlandese, Samuli Reine. Samuli da anni porta la sua ricerca che riguarda la cura, come l'arte performativa possono sostenere le pratiche di cura. In questo caso l'atto che lui sta portando avanti con lo spettatore che lo incontra è l'atto di allattamento. Allora siamo lì, proprio si fa ritornare a una situazione, a una posizione probabilmente poco presente nella nostra vita quotidiana dopo il momento in cui questo allattamento si è concluso. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? sito sant'arcangelo.com. La biglietteria è aperta sulla piazza ogni giorno. Sono, oltre agli spettacoli di cui abbiamo parlato, ci sono anche moltissime attività gratuite. Non abbiamo parlato molto sulla piazza Gabrianelli, in cui avremo due spettacoli diversi, gratuiti, la prima fine settimana pari nel secondo con Hit Out, e poi la seconda settimana Francisco Tiago Cavalcanti, un artista brasiliano che vive a Lisbona. Tutte queste informazioni le trovate sul sito, e anche informazioni che riguardano i workshop, perché sono molti workshop gratuiti. 54esima edizione del Sant'Arcangelo Festival a Sant'Arcangelo di Romagna dal 5 al 14 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Tomasz Kirenczuk. A presto! Grazie, grazie mille. Con Paola Varesi dell'Istituto Cervi per presentare la 23esima edizione del Festival di Resistenza a Casa Cervi a Gattatico dal 7 al 25 luglio 2024. Ben trovata. Grazie a voi dell'ospitalità e ben ritrovati. È una consuetudine essere ospiti della vostra preziosissima emittente che ci dà tanta risonanza, ecco. Sì, cominciamo il 7 luglio, siamo alla 23esima edizione di questo progetto che porta il teatro contemporaneo, il teatro nella vocazione cosiddetta civile, negli spazi di Casa Cervi, dove la famiglia Cervi ha vissuto e operato delle scelte che poi sono state fondamentali, insomma, per tutti noi. La loro casa è diventata museo, e fra le tante progettualità che propone c'è anche appunto il guardare alla storia, alla memoria, ma anche a quello che siamo oggi e quello che viviamo attraverso il teatro, che è sempre un modo molto diretto per rappresentare il presente, per rappresentare la nostra storia, la nostra memoria, e per farci riflettere. Quindi è un teatro che fa riflettere, che intrattiene anche e che ci dà uno spaccato del nostro mondo sostanzialmente. Come si caratterizza questa edizione? Come sempre, 7 spettacoli che si svolgono in 7 serate, appunto fra il 7 e il 25 luglio, sono state selezionate da un bando di selezione. Quest'anno c'è una notizia molto positiva, che però insomma ha fatto sì che tante compagnie rimanessero fuori dalla selezione, perché sono arrivati circa 250 progetti, che ci dice una cosa molto positiva: che il teatro è vivo, che il teatro ha delle cose da dire, che il teatro ha bisogno di abitare degli spazi anche non convenzionali, gli spazi appunto come Casa Cervi, e di approcciare un altro modo appunto per rappresentare i propri lavori. Quindi è stata una selezione molto difficile. Verranno delle compagnie importanti come TDAK, come SIP Produzione Teatrale, come Carullo Minasi da Messina, una compagnia messinese, come la compagnia genovese Beltramo, il Teatro di Pistoia, che sabato 13 luglio porteranno una pièce di Bertolt Brecht, che fu scritta dal grande intellettuale, autore, scrittore teatrale nel 1930, poi rappresentata soltanto a Guerra Finita. E quindi insomma cominciamo alla grande. Il 7 ospiteremo la compagnia di San Lorenzo, con uno spettacolo. Anche questa compagnia arriva dalla Sicilia ed è uno spettacolo siglato da Michelangelo Maria Zanti, e si parte con un tema molto attuale, perché è quello del rapporto genitori-figli, che è un tema che riguarda tutti noi cittadini e cittadini tante, il rapporto fra le generazioni, le aspettative e i desideri, le aspettative deluse, e però insomma la possibilità anche di saldare un nuovo patto fra le generazioni. È una compagnia molto consolidata, anche questa si chiama Compagnia di San Lorenzo, che si è misurata anche, si misura nel suo percorso, con grandi del teatro contemporaneo come Sartre, Pinter. Quindi insomma partiamo con un bel pezzo da 90, diciamo così. Tra l'altro domenica 7 luglio, prima dello spettacolo, e tutti gli spettacoli vengono rappresentati alle 21.30 negli spazi aperti di Casa Cervi, ecco, per l'inaugurazione domenica 7 luglio. E lo ricordo, il 7 luglio è la data dei morti di Reggio Emilia e gli operai uccisi dal governo Tambroni il 7 luglio in Piazza Reggio nel 1960, quindi è una data importante del calendario civile, ed è molto significativo che il festival inizi sempre il 7 luglio. Prima dello spettacolo ci sarà un concerto della Toscanini, un'orchestra molto importante a livello nazionale ed europeo, che porterà dei giovani con un progetto che si intitola Note per la Pace. Quindi inizieremo con la parola pace, con una parola che ci deve abitare tutti, deve abitare noi cittadini, deve abitare anche l'arte, che come la musica e il teatro è una grande cassa di risonanza anche per messaggi di questo tenore. Per saperne di più sul programma, ci dai tutti i riferimenti web? Abbiamo il sito, siamo sui social, abbiamo una pagina Facebook, siamo su Instagram, abbiamo il sito attivo sia del Museo Cervi sia dell'Istituto Alcide Cervi, che gestisce appunto il museo di Casa Cervi. E aggiungo anche un elemento di novità che caratterizza l'ultima edizione del festival post pandemia: la presenza dei giovani che fanno parte della giuria che conferisce il secondo premio, che è il premio Gigi Dall'Aglio, intitolato a un grande del teatro contemporaneo, e un gruppo più allargato dei giovani della giuria gestirà anche dei laboratori intitolati Il Punto Critico, che animeranno le serate e soprattutto avranno un ruolo fondamentale nelle interviste che sempre dopo ogni spettacolo vengono condotte a cura di rappresentanti del mondo del teatro, della cultura, alla compagnia. Ma saranno quest'anno anche i giovani che entreranno proprio nel vivo della conduzione di queste interviste. Le date sono il 7, il 13, il 15, il 17, il 19, il 21 e il 23 luglio, e poi la festa della storica pasta asciutta di giovedì 25 luglio, che è il momento della premiazione con l'assegnazione di due premi: il primo premio Museo Cervi Teatro per la Memoria e appunto il secondo premio dei giovani Under 30 Gigi Dall'Aglio. Ecco, abbiamo parlato dell'importanza storica di una data come quella del 7 luglio, ricordiamo anche quella del 25 che chiude il festival. Assolutamente, la storica pasta asciutta che i Cervi avevano preparato quando nel 1943 la caduta del governo di Mussolini faceva pensare altri esiti di quelli che in realtà non saranno stati, perché appunto dopo l'8 settembre sappiamo che inizieranno i 20 mesi della resistenza durissimi e ci sarà ancora tanto tempo per arrivare alla liberazione del 25 aprile, però quel momento lì fu un momento di gioia, si veniva da un regime che aveva occupato appunto l'Italia dal 1922 e si pensava appunto che le cose potessero prendere un altro corso, così non è stato, ma i Cervi, partecipando di questa gioia collettiva, hanno un'idea molto importante, veramente originale, di preparare una pasta asciutta che con i birocci hanno importato in piazza Campegine, quindi un segno molto importante di occupazione della piazza come spazio pubblico, mentre la piazza fino a quel tempo era stata destinata ad adunate e comandate, e quindi rimane proprio nella memoria collettiva come fatto simbolico. È stata ripresa negli anni 80, quindi la riproponiamo il 25 luglio negli spazi esterni di Casa Cervi con una grande offerta di pasta asciutta alla maniera dei Cervi, che è un modo appunto per richiamare i valori di solidarietà, i valori di partecipazione e l'antifascismo ovviamente, e in quell'occasione vengono conferiti i due premi. La pasta asciutta chiaramente qui è il centro propulsivo in cui è nata la pasta asciutta, ma c'è una rete estesissima, si chiama la Rete Nazionale delle Pasta Asciutte Antifasciste, che si collegano con noi in quell'occasione, e quindi pasta asciutte che vengono organizzate in ogni dove, in piazze, interni di biblioteche, così in nome di questa pasta asciutta dei Cervi e lungo il filo appunto del ritrovarsi dentro i valori della democrazia, dell'antifascismo e della partecipazione. 23esima edizione del Festival di Resistenza a Casa Cervi a Gattatico dal 7 al 25 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Paola Varesi dell'Istituto Cervi. A presto! E grazie a voi, a presto, partecipate numerosi, grazie mille! Con Giambattista Tofoni, ideatore dell'ottava edizione di Risorgi Marche, dal 6 luglio al 2 agosto 2024, ben trovato. Grazie dell'invito, ben trovato. Risorgi Marche è nato nel 2017 dopo il terribile terremoto che ha colpito le Marche, Umbria e Lazio nel 2016, da un'idea di Neri Marcore, che è un caro amico, abbiamo collaborato per molti anni insieme. Diciamo che era un modo per riaccendere i riflettori su una regione che era stata un po' dimenticata nell'immaginario collettivo, quindi Neri ha chiamato tutta una serie di suoi amici, artisti straordinari che sono venuti a suonare gratuitamente nei primi 3 anni all'interno del festival. Abbiamo portato circa 300.000 persone in questi posti meravigliosi che sono i Monti Sibillini e l'Appennino centrale italiano, che era colpito. C'era un discorso anche di un'economia che stava decadendo dopo il terribile terremoto, e quindi abbiamo un po' riattivato la microeconomia locale, portato solidarietà alle comunità locali e cercato di stimolare un po' la ricostruzione. Chiaramente non eravamo noi quelli preposti alla ricostruzione, noi volevamo essere la società civile che reagisce rispetto a un evento naturale disastroso come quello che c'è stato. Insomma, poi il festival è cresciuto, abbiamo fatto più di 60 concerti con i più importanti nomi che ancora ringraziamo della musica pop italiana e anche internazionale, e è diventato sempre più un festival sostenibile, inclusivo e solidale. Quindi siamo arrivati adesso all'ottava edizione, un festival maturo, stiamo sempre più sostenibile. 2 anni fa abbiamo vinto il premio come miglior festival green italiano, perché non utilizziamo palchi, non utilizziamo torri layer, l'amplificazione è controllata, la gente deve camminare, siamo tutti seduti su un prato, non ci sono transenne, c'è un rapporto veramente unico tra artista, natura e paesaggio. Come si caratterizza questa edizione? Inizieremo il 6 luglio con Dardast, che è un artista marchigiano che sicuramente conoscerete perché è il produttore dei più grandi artisti pop italiani, con un progetto tutto speciale, senza visual, senza scenografie, senza grandi amplificazioni, in acustico con un suo quintetto d'archi. E poi il giorno dopo avremo con la Pesce di Martino, poi tutta una serie di bellissimi concerti, tra cui Est Reisiger, Concordo de Rosseo, Pio Alfonsi, Lucio Corsi, insomma un misto di musica italiana di livello. E si sviluppa sempre più sulla sostenibilità, abbiamo ridotto un po' il trekking per il pubblico per far sì che sia ancora più inclusivo il festival, così stimolando anche le persone a organizzarsi la propria giornata. Molte attività commerciali nella zona del terremoto sono ripartite, quindi quello che diciamo al pubblico è prenotatevi, il biglietto tanto o è gratuito, c'è la prenotazione gratuita, oppure costa 5 euro solo per controllare gli accessi. E il messaggio che vogliamo mandare per il pubblico è di organizzarsi la propria giornata, cioè il festival è un festival lento, di turismo lento, di partecipare iniziando la mattina, visitando le comunità, acquistando il panino nella dolcineria vicino al concerto, farsi una passeggiata nei sentieri che sono segnalati del territorio del Sibillini, insomma visitare i musei e le cose che sono disponibili. Insomma, ecco, una giornata non più parcheggiare e andare al concerto, ma viversi proprio una giornata completa. La maggior parte dei concerti sono nel fine settimana e l'abbiamo spostati nel fine settimana appunto per dare questa possibilità di vivere una giornata intera immersi nella natura. Quanti sono i luoghi coinvolti? Sono 10 luoghi con 12 concerti, perché in due occasioni abbiamo un doppio concerto, e sono tutti luoghi della regione Marche che sono stati colpiti o dal terremoto o dall'alluvione 2 anni fa. Sono spazi sempre aperti, o vicino delle abbazie o sui prati montani, o la scenografia saranno i grandi monti sibillini, insomma da Pesaro fino a Macerata e Fermo. Com'è stata la scelta degli artisti e delle artiste? Più che altro succede che insomma ci abbiamo avuto una serie di richieste da parte degli artisti di partecipare, poi stiamo scegliendo sempre di più quell'aspetto che unisce l'artista con la natura, cioè quell'aspetto un po' anche acustico in qualche modo, anche perché vogliamo puntare sulla qualità del suono più che sulla potenza del suono. Quindi, non so, nel caso di Dardast, per esempio, sarà uno dei pochi concerti che fa con pianoforte, senza elettronica e un quintetto d'archi. Con la Pesce di Martino verranno da soli senza la band, cioè Est Reisiger con il Concordo e tenore di Rosseger, il quartetto classico sardo dei tenore e Concordo, con un grande violoncellista come olandese come Ernst, che conosco personalmente. C'è sempre questo rapporto tra musica, natura e rapporto anche col suono, ecco. Questo è il motivo principale che ci spinge a scegliere questi artisti. Quindi stiamo andando in questa direzione e credo che nei prossimi anni andremo sempre di più in questa direzione di sostenibilità, cioè cambiare anche un po' il paradigma, nel senso che il pubblico sta seduto attorno all'artista, non c'è questo distacco che c'è in un teatro con 4-5 metri di distanza, oppure in un palasport o in uno stadio dove siamo a 10-15 metri. Diciamo che il pubblico è seduto attorno all'artista, si crea una situazione veramente intima anche con 2000 persone. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli delle informazioni? Sì, sui social, che è sempre Risorgimarche, oppure su risorgimarche.it. Stanno finendo i biglietti, invitiamo tutti a prenotarsi o acquistare i biglietti, che ricordo sono a 5 euro, un prezzo veramente, serve solo per controllare gli accessi, per evitare che siano 10.000 persone invece che 2.000, quindi gestire la sicurezza in maniera consona. 8ª edizione di Risorgimarche, dal 6 luglio al 2 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Giambattista Tofoni. A presto! A presto, grazie mille, a presto alla prossima chiamata. Ok, grazie. Con Luca Ricci, co-direttore artistico, per presentare la 22ª edizione di Kilowatt Festival a Sansepolcro dal 12 al 20 luglio 2024. Ben trovato. Ben trovato a te, Federico, e a chi ci ascolta. Spieghiamo cos'è questo festival. Allora, Kilowatt è un evento di multidisciplinare, di teatro, danza, circo, musica, con una vocazione, uno sguardo alla scena indipendente, anche con una, insomma, propensione anche a cercare una visione anche politica e sociale, se vogliamo, insomma, all'interno della creazione artistica. Come si caratterizza quest'anno? Allora, il titolo di quest'anno si chiama Contengo moltitudini, perché ogni anno il festival ha una sorta di claim che prova un po' a leggere anche alcune urgenze e necessità del nostro tempo, e in questo caso ci sembrava importante scegliere questa frase famosa di Walt Whitman dal suo Canto di me stesso, per dirci anche che in questo tempo, insomma, c'è un po' anche un'attitudine a definirsi, delimitarsi, anche alle volte tormentare le parole per costringere a rappresentare individualità sempre più strette, insomma, no? E dove ci si riconosce tra simili. Invece la nostra volontà è dire, forse l'obiettivo dell'arte è anche accogliere proprio le moltitudini, le pluralità, le differenze, senza chiuderle in gabbie di simili. Quanti sono gli appuntamenti? Allora, abbiamo in programma ben 104 appuntamenti in 9 giorni, quindi è davvero una maratona, un tour de forza, ma insomma penso che non ci sarà nessuno, a parte me forse, che li farà tutti e 104, però insomma sicuramente quello che è divertente di un festival con una struttura come Kilowatt è che ogni giorno ci sono 7-8 spettacoli, per cui c'è la possibilità di scegliere, anche di perdersi qualcosa, ma magari poi ritrovarsi al dopo festival con altri spettatori, a parlare di quello che si è visto, di quello che non si è visto, che magari si potrà recuperare il giorno dopo. E poi non ci sono solo spettacoli, perché il festival è fatto anche di tanti laboratori, ce ne sono almeno 5 quest'anno, di cui uno è dedicato alla creazione artistica in digitale, ma ci sono anche tanti eventi inteso come convegni, film, e quindi anche la possibilità di vivere davvero l'intera giornata dalle 10 di mattina alle 2 di notte quando finisce il dopo festival. Com'è stata la scelta artistica? Ma guarda, il festival prova a dare cittadinanza, come dice anche il titolo, anche a una pluralità di linguaggi, quindi oltre al fatto, come dicevo prima, di accogliere sia teatro, sia danza, sia circo, sia musica, ma anche all'interno della stessa disciplina, diciamo così, proviamo a mettere insieme anche, che so, lavori di drammaturgia, anche molto impegnati, magari anche con pezzi di stand-up comedy, che quindi si pongono su un piano sempre intelligente, però insomma anche allegro, divertente, magari anche con cose più legate alla performance, contenuti che sono più sperimentali e contemporanei, con cose anche molto più larghe, anche qualcosa adatta ai bambini. Ora non è un festival per bambini, però noi abbiamo sempre l'abitudine di contrassegnare con un pallino giallo nel nostro programma quegli spettacoli che i bambini possono vedere. I luoghi? I luoghi sono 16, quindi all'interno della cittadina di Sansepolcro, che poi è un piccolo centro di appunto 16.000 abitanti, un luogo per ogni 1.000 abitanti più o meno abbiamo scelto, e no, a parte gli scherzi, insomma ci sono tanti spazi all'aperto, però protetti, essenzialmente lavoriamo all'interno di chiostri, quindi protetti dal punto di vista sonoro, insomma della possibilità di concentrazione e silenzio, ma anche all'aperto, perché d'estate ovviamente siamo anche contenti di poter stare all'aperto, qualcosa anche all'interno dei teatri, e poi anche tanti lavori site specific, quindi immaginati spazi inusuali, c'è un lavoro dentro un camper con l'aria condizionata però, e poi c'è un lavoro invece che viene fatto su Telegram, credo che sia il primo spettacolo al mondo che si fa su Telegram, è una riedizione dei Telesmanie della villeggiatura di Goldoni, che tra l'altro quello si può seguire anche da casa senza venire a Sansepolcro, si può prendere il biglietto online, è l'unico spettacolo del festival che si può vedere da lontano. E poi ci sono anche spettacoli in cuffia, che quindi presuppongono il camminare all'interno degli spazi urbani della città di Sansepolcro, quindi non solo teatri ma anche luoghi alternativi, diciamo così. Tutti i riferimenti web per il programma? Il sito è kilowattfestival.it con la K, la W e 2T ovviamente, kilowattfestival.it. 22esima edizione di Kilowatt Festival dal titolo Contengo Moltitudini. A San Sepolcro dal 12 al 20 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Luca Ricci. A presto! Grazie a te, a voi, e vi aspettiamo allora. A presto! Il coautore Francesco Panier sul libro Perché fermare i nuovi OGM. Una presentazione a Roma al Totem Garden Bar a largo Alessandrina Ravizza mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 18:30. Ben trovato. Grazie Federico, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci racconti di questo lavoro? Volevamo, diciamo, cadere in nessun equivoco. Noi siamo chiaramente contrari come Crocevia alla liberalizzazione di questi organismi geneticamente modificati che oggi rischiamo fortemente in Europa. Non è ancora successo, ma sta per accadere, e manca soltanto un parere di tutti gli Stati membri, cosa che vorremmo poter evitare con una mobilitazione da parte delle persone, degli agricoltori e, insomma, di tutte le strutture, dei movimenti che vorranno partecipare. È un libro che cerca proprio di raccontare come siamo arrivati a questo punto, come dagli OGM cosiddetti di prima generazione, ricordate quelle pannocchie killer che venivano spesso agitate nelle manifestazioni del movimento ecologista e contadino, siamo arrivati oggi a tutta una serie di nuovi organismi geneticamente modificati di cui si sa molto poco a livello pubblico, ma che hanno gli stessi rischi, le stesse problematiche di quelli di vecchia generazione. Allora siamo andati a cercare un po' di storia, un po' di informazione riguardo a questi nuovi OGM e stiamo cercando di capire e di raccontare soprattutto perché sono molto interessanti per le grandi multinazionali e per alcuni biotecnologi, e un grosso problema invece per gli agricoltori biologici, per gli agricoltori contadini che vedranno le proprie sementi privatizzate dai brevetti. Ecco, quali sono i problemi per l'agricoltura e per la salute? Per la salute è ancora in fase di ricerca, chiaramente, però ci sono delle avvertenze molto preoccupanti perché a marzo l'Agenzia francese per la salute e la sicurezza alimentare ha emesso un rapporto molto critico sulla liberalizzazione di queste nuove OGM, dicendo che andrebbero invece valutati caso per caso con le regole che già ci sono, cioè una valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti, proprio perché potrebbero emergere dall'uso di queste tecnologie e di questi prodotti nuove tossine e allergeni che in questo momento non sono ancora noti. Quindi l'agenzia francese, che è equivalente al nostro Istituto Superiore di Sanità, chiede una grossa attenzione rispetto all'utilizzo sconsiderato di queste biotecnologie. Dal punto di vista agricolo e ecologico invece gli impatti sono già molto noti, che sono quelli relativi anche agli OGM di prima generazione, ovvero senza una tracciabilità, un'etichettatura, una separazione delle filiere, perché in Italia non è possibile visto il territorio piccolo e stretto che abbiamo, la contaminazione da parte di colture geneticamente modificate sarà inevitabile e quindi tutti i campi biologici o anche semplicemente non OGM degli agricoltori potrebbero essere molto facilmente inquinati geneticamente, diciamo così, dalle colture OGM con il passaggio di polline anche brevettato dai campi geneticamente modificati a quelli non. Questo significa che le aziende detentrici dei brevetti venduti ai contadini potranno anche chiedere i danni agli agricoltori che risulteranno contaminati, perché indirettamente avranno coltivato, senza volerlo, una pianta coperta, segretata da brevetto industriale e quindi avranno violato la proprietà intellettuale. Questo potrebbe portare, secondo la legge italiana, perfino alla distruzione del raccolto e al pagamento di un'indennità. Chiaramente vediamo che siamo davanti a cesura epocale, perché se il sistema dei brevetti entrerà nel nostro ordinamento in questa maniera tramite gli OGM, cambierà tantissimo per gli agricoltori, che vedranno aumentare i loro costi e finiranno in tribunale molto più spesso. Quali sono state le vostre fonti? Sono state di carattere storico, quindi siamo andati a osservare interviste, rapporti, racconti dell'epoca in cui gli OGM sono nati, quindi dagli anni 70 in avanti, da quando la modificazione genetica, la biotecnologia ha avuto il suo inizio. E poi abbiamo chiaramente anche delle fonti dirette, perché come Crocevia, come organizzazione che supporta i movimenti contadini in tutto il mondo, abbiamo contatti con le reti, le organizzazioni in tanti paesi. Infatti riportiamo storie dal Sudafrica, dal Messico, dalla Francia, storie di movimenti, storie di persone che hanno animato la battaglia agli organismi geneticamente modificati. Abbiamo chiaramente anche fonti istituzionali, quindi fonti da cui trarre, come raccontavo prima, per esempio informazioni quali l'impatto possibile sulla salute delle persone, quindi l'Agenzia francese per la salute e la sicurezza alimentare. Abbiamo interrogato anche uno scienziato francese che si chiama Yves Berthaud ed è stato nell'Alto Consiglio francese per le biotecnologie prima di dimettersi un giorno dopo che un suo lavoro in bozza era stato usato come giustificazione da parte del suo ente per suggerire al governo di non regolamentare queste tecnologie. Yves Berthaud è molto critico invece con i nuovi OGM ed è uno dei massimi esperti mondiali di queste tecnologie, oltre che della loro tracciabilità, perché ha sviluppato in tutta Europa la rete dei laboratori che ancora sussistono, che tracciano l'inquinamento da OGM nei prodotti, e quindi siamo riusciti ad arrivare a lui a fare una bella conversazione di un'oretta e mezza in cui ci ha raccontato tutte le criticità che lui vede nella liberalizzazione di queste biotecnologie. È uno scienziato molto molto rigoroso e però anche molto critico, quindi è stato molto interessante avere a che fare con qualcuno che alza la testa di fronte ai miliardi di euro che sono in gioco con la liberalizzazione degli OGM, mentre molti scienziati, a partire dal CREA, il centro di ricerca del Ministero sull'agricoltura italiano, sono invece completamente schiacciati su posizioni pro industria e pro multinazionali. Quali strumenti ci sono per poter contrastare? Innanzitutto la controinformazione, cioè impariamone di più, scopriamone di più, cerchiamo di leggere e informarci su che cosa sono, cosa possono provocare queste nuove biotecnologie liberalizzate nei nostri campi e nei nostri piatti, e poi la mobilitazione, quindi organizziamo sui territori incontri, pressione istituzionale sui propri comuni e sugli enti locali, cerchiamo di far mobilitare chiunque, dai consumatori contro i supermercati fino ai sindaci contro i loro referenti nazionali, per dichiarare questi territori liberi da OGM e per ottenere una nuova ondata di opinione pubblica come fu negli anni 90 e 2000, e noi raccontiamo nel libro, per fermare l'avanzata dei nuovi OGM. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul vostro lavoro? Ci trovate su www.croceviaterra.it e sui vari social come Centro Internazionale Crocevia. A presto! Grazie, grazie mille a voi. Il coautore Francesco Pagnès sul libro Perché fermare i nuovi OGM. Una presentazione a Roma al Totten Garden Bar a largo Alessandrina Ravizza mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 18:30. È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Questa è insomma la settimana che continua a offrirci un po' di teatro in giro per Roma, non tantissimo a dire la verità. E io comincerei come al solito con una nota un po' dolente, diciamo, dal nostro Teatro Torbella Monaca, perché è cominciata la stagione estiva. Torbella Monaca Teatro Festival Arena Estate. Sono 50 serate di spettacolo, cominciato il 4 luglio e va avanti fino all'11 di agosto. Però, francamente, dal comunicato che mi arriva vedo 4 foto di artisti, tra virgolette, che saranno al festival, e vado con ordine queste foto. Marco Travaglio, giornalista, che va bene. Giorgio Colangeli, Massimo Ventudiello, poi Pino Insegno e Roberto Ciuppoli, con tutto il bene. Però vedo 4 foto in cui ci sono 5 uomini che hanno abbondantemente superato i 50 pure da parecchio, insomma mi dà l'aria che forse ci poteva fare di meglio. Se entro all'interno del programma trovo che oltre ai già citati abbiamo Sebastiano Somma, Ezio Greggio, Luca Sommi che non so chi sia, Stefano Messina, Michele La Ginestra, Patrizio Cigliano, Marcello Cotugno, Gianluca Ramazzotti, Fabio Canino, Riccardo Polizzi Carbonelli. Insomma, io per trovare una presenza femminile all'interno di un mese di programmazione all'arena del Teatro Torbella Monaca devo arrivare a una sola presenza, almeno da quello che vedo qua, e cioè quella di Elena Arvigo, che il 4 agosto farà una cosa di cui magari parleremo pure. È un dato che comunque io devo segnalare, e quindi lo segnalo. Cari Torbella Monaca, davvero non c'era modo di avere presenze femminili? Il direttore artistico Alessandro Benvenuti ha deciso di fare questa proposta, e questa è, io così la dico e la commento in questo modo. E pazienza, si va avanti. Il resto delle cose da vedere, insomma, ce n'è, perché sotto la Giolla di Castello continua, questa settimana offre uno spettacolo mercoledì 10 luglio alle ore 21 presso il cortile Alessandro VI, appunto dentro chiaramente Castel Sant'Angelo, e si tratta di Smarrita e Soave, Adriano, poeta tra poeti, con Roberto Latini, le musiche di Gianluca Misiti, la rassegna curata da Anna Selvi, chiaramente porta Roberto Latini all'interno delle parole di Adriano, che rivive in qualche modo, insomma, l'imperatore romano che vive attraverso la propria tendenza all'arte, alla letteratura, alla poesia, accompagnata appunto dalle musiche del figlio Gianluca Misiti, che insomma cura la musica dei spettacoli di Roberto Latini da sempre, insomma, la compagnia Forte Braccio Teatro. Poi andiamo a vedere Teatri d'Arrembaggio, cosa offre questa settimana, la rassegna che va avanti fino al 4 agosto al Teatro del Lido di Ostia, ed è all'ingresso gratuito, quindi insomma mi fa piacere segnalarla anche per questo. E questa settimana andremo a vedere precisamente questo spettacolo, Le sorelle Landru, della compagnia Verba Volant, venerdì 12 luglio, e sabato 13 Daniele Gattano con questo monologo stand-up comedy Ananassi Baby. E mentre invece per quanto riguarda gli spettacoli per gli spettatori più piccoli, il 14 domenica andremo a vedere questo Un anatroccolo in cucina. Questo per Teatri d'Arrembaggio al Teatro del Lido di Ostia. Continua la rassegna pirandelliana che andrà avanti fino al 4 agosto con la regia di Marcello Amici, che mette in scena insomma un bel po' di opere di Luigi Pirandello, e lo fa ai Giardini di Sant'Alessio all'Aventino. Questa settimana, fatemi controllare, andremo a vedere Così è se vi pare e I giganti della montagna, un po' come tutti gli altri giorni fino al 4 agosto, e quindi insomma non direi che tutte le settimane cioè, facciamo questo recap, insomma in qualche modo la pirandelliana sappiamo che offre a giorni alternati Così è se vi pare e I giganti della montagna fino al 4 agosto. Poi per quanto riguarda invece il format Bar Campioni, andremo a vedere il progetto Edicole questa settimana, della data di venerdì 12 luglio, a ingresso gratuito, Piazza Testaccio. L'edicola è una pietra miliare dell'infanzia nella vita adulta delle tante generazioni, diventa un presidio sociale nei piccoli paesi, un punto di riferimento in città, però chiaramente le edicole pian piano hanno smesso di avere grande importanza nell'apparato sociale, soprattutto delle grandi città, insomma dal 2018 in poi hanno chiuso 4 edicole al giorno, e la compagnia diretta da Ariele Vincenti con l'interpretazione di Matteo Cirillo, con l'eliminazione del format appunto di Fabio Morgan, cerca di portare attenzione su queste edicole scomparse, che appunto andando a cercare quella di Piazza Testaccio, che è appunto un po' iconica insomma per un po' tutta Roma. Mentre invece, perdonate perché mi sono un po' confuso, il progetto, il format Bar Campioni, sempre ideato da Fabio Morgan, è un'iniziativa per valorizzare le storie e le imprese dei grandi sportivi, mettendoli in scena nel contesto dei bar più simbolici della periferia di Roma. E dal 5 al 20 luglio, il 5 l'abbiamo già visto, ma insomma il 20 luglio avremo un altro spettacolo, appunto magari ne parleremo poi la settimana successiva. Questo per quanto riguarda Bar Campioni, però lo volevo citare perché appunto in precedenza non ne avevamo parlato. Ancora qualcosa da ricordare sicuramente è la stagione fuori stagione dell'associazione Grandi, insomma di Teatro Biblioteca Quarticciolo, sempre più fuori 2024, comincia ieri in realtà all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo e al Goethe Institute. Andremo a vedere questa settimana, già ieri, ma sicuramente stasera, l'Accademia Tedesca Villa Massimo The Mountain della Croupe Passion Senior Serrano, compagnia vincitrice del Leone d'Argento alla Biennale di Venezia, che presenta per la prima volta a Roma uno spettacolo che ha per tema la fake news all'interno dell'universo multimediale, mentre invece a seguire, sempre stasera, ci sarà il concerto di Francesco Leineri, 12 motivi, concerto video installativo, 6 specific, precisamente, mentre mercoledì 10 luglio, sempre all'Accademia Tedesca, andremo a vedere Rosa di Silvia Gribaudi, con ironia, porta in scena del corpo, con questo One Woman Show, di Claudia Mastricano, e mentre invece seguiranno due spettacoli successivamente, ossia il 10 luglio, venerdì, stasera sono in vena il concerto Oscar De Summa, che presenta il suo secondo capitolo della trilogia della provincia, appunto stasera sono in vena i 10 anni dallo spettacolo, con un riallestimento con una band vera e propria sul palco, perché ricordo lo spettacolo, insomma, canta una sorta di, con una band registrata, ma in questo caso avremo una band live. Molto interessante in realtà il lavoro che chiude la settimana, il 14 luglio, sera alle ore 21, Alberto Bubacar Malanchino è l'interprete di Sid, lo spettacolo che ha vinto in box nel 2023, che ha vinto il premio UPU 2023, un giovane di periferia che per rincorrere il sogno del successo intraprende la via della violenza e ora fa i conti con il passato, quindi una storia molto particolare. Non ho sentito molto parlare di questo spettacolo, perché a Roma poi è passato pochissimo e altrove non sono riuscito facilmente a rintracciarlo. E con questo direi che noi abbiamo concluso la nostra settimana. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.